Da sempre sono una lodola perché mia mamma mi ha abituato a andare a essere il chierichetto alla messa prima, quindi alle 6, ma ancora quando ero un ragazzino. Poi andavo là ad aiutare mio zio in panetteria e il panettiere fa il pane presto, per cui da sempre ho assecondato questa mia esigenza. E come sportivo, poi dovendo anche allenarmi due volte al giorno, il mattino era il momento in cui esprimevo meglio le mie prestazioni. Senza sveglia, normalmente prima delle 5:15, però è necessario che io metta giù la testa alle 9:30, per cui alla fine, quando si fanno i conti delle ore di sonno, sono quasi quelle di una persona normale. Mi sentivo favorito quando, per esempio, andavo a gareggiare negli Stati Uniti, perché avevo un fuso orario favorevole in quel caso lì, e mi sono sempre espresso bene a quel livello, anche se quando si va a preparare una gara si cerca già settimane prima di abituarsi a sostenere lo sforzo nell'orario della gara, proprio perché l'organismo può essere indotto a degli adattamenti. Col tempo ho regolato veramente il mio orologio e mi alzo e sono pronto dopo pochi minuti a esprimere il massimo sforzo cardiocircolatorio, cosa che invece altri atleti, i gufi, hanno difficoltà, per cui diciamo che se io dovessi competere la sera tardi avrei difficoltà, ho difficoltà di concentrazione, mentre per me la mattina farei tutte le cose impegnative di questo mondo.